Effetto Mondo. Eccoci qua, ciao Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, come sempre collegata dal piano di sopra, rispetto a noi, giusto Giulia? Sì. Manteniamo le distanze, anche noi, lo ricordo, è un momento questo nel quale possiamo anche così, diciamo, fare un po' di dietro le quinte, no? Giulia? Sì, insomma, noi ovviamente la voce, per, soprattutto per quelli magari che notano di più le differenze, sono gli ascoltatori più assidui, si sentirà, è inevitabile, però insomma cerchiamo di fare del nostro meglio. Se possiamo non essere a contatto ed è difficile quando sei in uno studio radiofonico, rispettare le distanze, rispettare tutte le precauzioni. Insomma, diretta telefonica, va bene così lo stesso. Da dove cominciamo, Giulia? Beh, direi dagli Stati Uniti. È comunque sempre difficile in questi giorni trovare altre notizie o legate direttamente ai bollettini sanitari e di diffusione del virus o agli effetti economici. Per esempio ho visto, mi ha fatto molto effetto sui giornali britannici che cominciano a esserci le cause per la cancellazione delle lezioni nelle università, perché tantissime università nel Regno Unito e non solo sono a pagamento, quindi non è come da noi che le università chiudono e vabbè, tanto comunque sappiamo che da noi l'università è molto meno cara rispetto, esiste innanzitutto l'università pubblica di eccellenza e diffusa capillarmente e poi le tasse universitarie sono infinitamente più basse di quelle di altri paesi. Però comincerei dagli Stati Uniti perché comincia a esserci veramente molta paura e gli Stati Uniti hanno paura sia per il numero di posti letto che finalmente hanno cominciato a contare nelle unità di terapia intensiva, perché è vero, quante volte abbiamo sentito dire che le persone molto ricche possono permettersi di andare dal superluminare negli Stati Uniti, è vero, le strutture di eccellenza esistono, è lì che sono state inventate tantissime tecniche chirurgiche, penso al trapianto di cuore, però l'assistenza capillare di fatto non esiste, quindi gli ospedali fuori dalle grandi città sono preoccupatissimi. E tra l'altro questo ha spinto ieri Biden, e ne parlano tutti i giornali americani, a fare non tanto una le pulci a quello che ha detto Trump, ma quasi già sentendosi, benché sappiamo ufficialmente non lo è, lo sfidante di Trump alle elezioni prossime, quindi potenzialmente il prossimo presidente degli Stati Uniti, ha delineato quello che secondo lui va fatto e come va considerata questa epidemia. Se vuoi sentiamo qualche secondo la voce di Biden, sì. Insolitamente vigorosa. The coronavirus does not have a political affiliation. It will infect Republicans, Independents and Democrats alike. Dice, ma in modo molto calmo, non ci sono risatine né da parte sua né da parte del pubblico. Il coronavirus non ha una affiliazione politica, non fa differenza tra ricchi e poveri, non fa differenza tra nazioni, non ignora che ci siano i confini, quindi è così che dobbiamo considerarlo. Chiaro che la critica è diretta alle misure di per esempio il divieto di volare da e per l'Europa, però soprattutto Biden poi nelle parti successive di questo intervento ha detto adesso dobbiamo però prepararci, appunto preparare gli ospedali, perché abbiamo ancora poco tempo per entrare in quella fase che, se per una volta vogliamo cercare di essere un po' umili e imparare dagli altri, altri paesi europei oltre che la Cina e la Corea del Sud hanno già affrontato. Giulia, se vogliamo lasciare gli Stati Uniti e venire da questa parte dell'oceano in Europa. Sì, direi che il caso che fa più effetto è quello del Regno Unito, perché lo chiamiamo ancora Regno Unito e quindi magari ci si aspetterebbe che almeno all'interno del Regno Unito ci fossero le stesse misure. In realtà Boris Johnson ha deciso, e ne parlano tutti i giornali, benché la cifra non ufficiale sia di 10.000 casi già nel Regno Unito, di non chiudere le scuole, mentre così farà la Scozia, che fino a prova contraria è ancora parte del Regno Unito, e anche nella parte dell'Irlanda che appartiene al Regno Unito. Quindi ci sono queste diverse misure, ma soprattutto dell'intervento di Boris Johnson ieri, e veramente è una specie di titolo unanime su tutte le pagine, è questa frase che lui ha detto: many more families will lose their loved ones, cioè ci saranno molte altre famiglie che dovranno dire addio ai loro cari. E questo ha fatto molto effetto. Sentiamo le sue parole, anche perché a me personalmente ha fatto effetto anche il tono un po' troppo freddo. D'accordo la calma del leader, però insomma dire una cosa del genere, ripeto, ha fatto talmente effetto che è diventato il titolo di tutti i giornali di oggi. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. quindi loved ones before their time, cioè prima del tempo, quindi anche... Beh, insomma, sì, una dichiarazione sicuramente. Per esempio, ricordiamoci che due giorni fa la Merkel ha detto che il 70% dei tedeschi potrebbero essere contagiati. Sono dichiarazioni forse che vogliono dare un senso, come dire, di affrontiamo chiaramente quello che abbiamo di fronte, però poi sul piano delle misure è un altro discorso. Sì, perché, questo mi porta tra l'altro anche alla copertina dell'Economist, sì, con un interessantissimo articolo all'interno che è intitolata The Politics of Pandemics, cioè la politica ai tempi della pandemia, perché dai giornali britannici è stato anche segnalato l'intervento del candidato alle municipali di Londra, il candidato sindaco, che è un ex membro del partito di Boris Johnson, o meglio, ancora un conservatore, ma aveva fatto parte anche della stretta cerchia di Boris Johnson, adesso invece è entrato un po' in collisione, e dice: attenzione a fare scelte politiche, perché quella di Boris Johnson, per mio conto, lui continua a spacciarla per una scelta basata sui dati scientifici, in realtà ascolta solo quegli scienziati che gli dicono che si può aspettare fino all'estate finché non sia raggiunta una immunità di gregge. Quindi è una decisione politica per non creare panico, per non creare scontento. Boris Johnson in teoria è ancora in una fase di luna di miele col suo elettorato che lo ha eletto con una percentuale, ricordiamo, così alta. La Brexit è stata messa totalmente da parte, molti giornali sottolineano che un'altra delle cose che slittano sono i negoziati a Bruxelles per la Brexit, e quindi prendere una decisione motivata politicamente è pericoloso quando ci sono dei rischi sanitari che, lo sappiamo benissimo, non sono chiarissimi neppure ai super specialisti. Quindi credere all'ipotesi che ti fa sentire meglio, più sicuro dal punto di vista politico, secondo molti giornali, e su questo è la copertina dell'Economist, è molto pericoloso. Senti Giulia, in molti in questi giorni notano che dal Sud America non arrivano notizie, no, sul coronavirus. Sì, tu cosa hai trovato? I quotidiani spagnoli, vabbè, hanno in prima pagina la foto di Sanchez, il primo ministro, che ieri ha parlato alla Nazione facendo un discorso, insomma, un discorso che ricorda molto le parole che abbiamo sentito qui in Italia con le misure economiche eccetera, ma soprattutto è il paese da conto dell'emergenza in Venezuela, che peraltro è l'apertura di El Universal, che è un quotidiano di Caracas, che dice: declarata l'emergenza nazionale per il Covid-19, Maduro si è deciso. Anche qui il problema è che adesso arriva questo atto di trasparenza, peraltro al quale noi per ora diamo poca attenzione, però anche lì probabilmente la pandemia era in corso da tempo, e il Venezuela è un paese dove credo che nelle farmacie si fa fatica in questo momento a trovare anche i cerotti, quindi vi lascio immaginare in che stato possono essere le terapie intensive, tra l'altro in un paese ancora martoriato dai blackout, certo, costanti, quindi certo. Questo è una delle cose che ha detto Biden, cioè, e qui si è rivolto direttamente a Trump: nell'amministrazione Trump, negli 8 anni di presidenza Trump, avevamo anche cercato di aiutare i paesi che non hanno sistemi sanitari all'altezza di quelli dell'Occidente a costruirli, proprio in prospettiva di una possibile imprevedibile pandemia. Questi aiuti sono stati completamente azzerati da Donald Trump. Adesso però probabilmente, contemporaneamente all'emergenza interna, dovremo anche per motivi egoistici cercare, sì, di aiutare altri paesi. Grazie Giulia, grazie Giulia Crivelli, è tutto per oggi e per questa settimana. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con te, con Effetto Giorno. Paolo Colleoni in regia, Marco Lombardo in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao da Alessio Maurizio, auguro di una buona giornata e buon weekend.